Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Di nuovo insieme con una nuova puntata di Radio Next. Non ci arrendiamo neanche questa settimana, grazie alla collaborazione con Radio Veronica One, la radio del Piemonte che ci sta dando una mano e ci ha prestato i suoi studi. Siamo al telefono con Michela Conti, che non può essere in studio per ovvie ragioni sanitarie. Michela Conti, fondatrice di Ugo, una startup che in questa situazione particolare ha veramente un servizio che può essere molto utile a tutti. Buongiorno Michela. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie mille per questo invito. Allora Michela, dobbiamo trovare delle soluzioni. Tutte le aziende devono rimboccarsi le maniche per trovare una soluzione per poter continuare a lavorare e dare servizi alla cittadinanza. Cosa fa Ugo? E come è nata e cosa sta facendo in questo periodo? Allora sì, noi siamo nati come startup innovativa a vocazione sociale che normalmente mette a disposizione di persone fragili, quindi anziane, ma anche persone con delle patologie spesso croniche, delle condizioni di salute e di disabilità un po' particolari, un servizio di affiancamento e di compagnia per attività fuori casa. Questo si basa su una piattaforma tecnologica che permette una gestione molto tempestiva e su una rete di operatori che noi selezioniamo e formiamo e sono persone di massima fiducia. In questo momento ci siamo interrogati su come riconvertire questa risorsa preziosissima che abbiamo, piattaforma ma soprattutto operatori, per aiutare le persone e le famiglie durante l'emergenza Covid-19. E quello che abbiamo elaborato è stato quindi il lancio di una campagna solidale in cui mettiamo a disposizione dei servizi diversi dai nostri servizi normali, quindi commissioni come fare la spesa, andare a ritirare una ricetta dal medico di base o andare in farmacia, che i nostri operatori, con tutte le norme di sicurezza e di prevenzione da rispettare, fanno per gli utenti over 65 e tutte le categorie fragili che bene restino assolutamente sempre a casa e non si espongano a nessun rischio. Il servizio in questo momento può essere semplicemente attivato andando sul nostro sito www.hellougo.com e visitando una pagina proprio dedicata a questa emergenza, in cui con un semplice bottone si accede a un form, si inseriscono poche informazioni necessarie per organizzare le commissioni che ognuno richiederà e il nostro servizio clienti si attiva e inizia a organizzare e prende contatto con l'utente. Viene fatto tutto via telefono, tramite la piattaforma internet o di persona? Allora, l'organizzazione viene fatta tutta attraverso la piattaforma o per venire incontro agli utenti che magari sono over 65 ma anche 75 ma anche 85 al telefono, quindi è possibile telefonarci, parlare col nostro team e raccontare la propria esigenza. Dopodiché poi il servizio viene invece erogato dai nostri operatori in carne ed ossa, che quindi possono o ricevere al telefono o con un messaggio la lista della spesa, vanno a farla e poi la consegnano alle persone a casa, oppure per esempio vanno a casa, ritirano una delega o le ricette per andare in farmacia ad acquistare alcuni farmaci per la famiglia, e quindi il servizio poi viene erogato da persone a persone, naturalmente con mascherina, guanti, distanza, la spesa consegnata fuori dalla porta e quindi nel rispetto di quelle che sono state le direttive. E le persone che consegnano e che fanno questi servizi per questa comunità fragile, e in questo momento siamo tutti fragili purtroppo, lo fanno come seconda professione o come prima oppure proprio come volontariato? Allora, normalmente i nostri Ugo lo fanno sicuramente come una professione che per alcuni può essere un lavoro integrativo, per altri può essere un lavoro quasi a tempo pieno. Loro sono quindi retribuiti per tutti i servizi che fanno. In questa occasione e per questi servizi speciali durante l'emergenza abbiamo chiesto chi di loro volesse partecipare anche in maniera solidale, quindi magari mettendo a disposizione servizi invece a titolo gratuito, e noi abbiamo degli operatori che devo dire sono eccezionali, sia perché sono instancabili e stanno continuando a lavorare dentro fuori ospedali e luoghi comunque anche pubblici per assicurare il servizio e non si sono mai tirati indietro e sono anche naturalmente disposti a partecipare a questa campagna solidale, quindi diciamo che nella normalità è un mestiere, oggi è un mix, se possono fare qualcosa anche a titolo gratuito lo fanno volentieri. C'è molto spirito di collaborazione e molta solidarietà. Quali sono i servizi che vengono richiesti maggiormente da parte dei vostri utenti? Allora, prima di questa situazione legata al virus, i servizi che noi normalmente eroghiamo di più sono gli accompagnamenti e stare accanto alle persone in impegni legati alla salute. Quindi solitamente li accompagniamo in ospedale, stiamo con loro durante una visita, durante un'infusione magari di una terapia, per esempio oncologica. Si trascorrono tante ore che sono impegnative, sono pesanti, e avere accanto il nostro Ugo per, come ottima compagnia e come sostegno, alleggerisce un po' questo tempo. E poi eroghiamo anche tanti servizi invece legati al disbrigo di attività quotidiane, quindi persone che cominciano ad avere qualche fragilità e che non è totalmente sicuro escano da sole, escono con i nostri operatori per fare una passeggiata, per andare dal panettiere, per andare a bere il caffè e fare quattro passi, quindi c'è un po' questa divisione tra salute e tempo libero, sempre per garantire inclusione sociale, indipendenza, motivazione a fare le cose agli utenti che iniziano ad avere le prime fragilità e le prime limitazioni. Oggi invece, avendo lanciato questo servizio speciale per la situazione attuale, ci richiedono molto la spesa, perché effettivamente viene richiesto alle persone di rimanere a casa, però passati i primi giorni e diciamo utilizzate le prime scorte, è difficile non uscire per procurarsi da mangiare, certo, o le medicine. Quindi il servizio che ci viene chiesto molto da ieri, che abbiamo lanciato l'iniziativa, è la spesa, la farmacia e per qualcuno anche magari portare fuori il cane, che è un po' più, certo, complicato a livello di gestione, ma è un'esigenza concreta. Per quelle aziende che magari volessero dare un contributo, possono sicuramente entrare in contatto con Michela Conti per capire come possono magari regalare una serie di servizi o sponsorizzare una serie di servizi per gli anziani, perché comunque, Michela, questo è un servizio a pagamento, visto che comunque i vostri operatori impiegano del tempo per fare questa serie di attività, corretto? In questo momento noi abbiamo lanciato la possibilità di richiederlo gratuitamente, però abbiamo coinvolto le aziende con cui già nella normalità lavoriamo e saremo felici di ricevere contatti da aziende che vogliano sostenere questa iniziativa solidale e quindi darci la possibilità di ampliare il numero di servizi gratuiti, perché ad oggi tutto il gratuito che diamo ce ne facciamo carico noi, certo, è una cosa impegnativa ma ci sentiamo in dovere di fare quanto più possiamo, però se ci fossero delle aziende che ci aiutano, ci sostengono a fare rete ancora di più, sarebbe preziosissimo per noi. Allora, cari ascoltatori, rimbocchiamoci le maniche e diamo una mano. Ok Michela, parliamo un pochino del terzo settore e delle startup. Se per le startup tradizionali, che hanno come primo obiettivo il profitto e la ridistribuzione del valore, è difficile in Italia racimolare fondi, quanto è più difficile per il terzo settore e per le startup solidali? Ma allora, diciamo che è difficile senz'altro, però quello che noi abbiamo rilevato essere la chiave in questa fase è raccontare il progetto e l'impatto che tu vuoi avere a delle persone che se ne innamorino e sposino davvero la causa. In questo modo si riesce sicuramente a portare a bordo il sostegno di anche imprenditori, mm-hmm, investitori privati che aiutino a far crescere e a rendere poi possibile la diffusione del servizio e la distribuzione a sempre più cittadini e la diffusione sul territorio. È una situazione sicuramente complessa. Quanto tempo e quanti investimenti hanno richiesto per mettere in piedi la piattaforma di Ugo? Allora, tanto, nel senso che sicuramente mettere in piedi in generale una startup e creare qualcosa da zero è una cosa molto impegnativa, è diciamo anche una scelta di vita per poi chi lo fa. Certo. C'è una prima fase in cui tu metti in piedi tutto con una sorta di prospettiva più legata a un fattore di business, al creare un'azienda che poi magari permetterà anche di guadagnare, poi dopo i primi mesi in cui tu lo fai ti rendi conto che cominci a farlo per altre motivazioni, hai una spinta, hai una motivazione proprio irrefrenabile di vedere questa cosa che cresca, che vada bene, che possa aiutare delle persone dando concretamente un servizio innovativo che serve. E quindi è molto impegnativo, però, perché chi lo fa a livello poi tutti i giorni, a livello mentale, a livello di energia fisica, devi investire tutto il tuo tempo, si lavora tantissimo, bisogna avere continuamente capacità critica, capacità di pensare cose nuove, cose migliori, capire dove stai sbagliando, cosa integrare e cosa magari scartare perché devi inserire qualcosa di nuovo, quindi è uno stress mentale importante, però la motivazione poi e l'energia di cui ti ricarichi vedendo l'impatto che hai e quello che riesci a mettere in piedi ti ricarica, ti ridà quell'energia, certo, che ogni giorno spendi. Primo, secondo e terzo settore, quindi il profitto e il volontariato che devono coesistere in qualche maniera. Voi come fate a collaborare con le imprese tradizionali? Allora, noi diciamo che siamo comunque una impresa più, cioè facciamo un servizio che entra nell'ambito socioassistenziale, però lo facciamo con una modalità di azienda, quindi uh-huh, profit. Uh-huh. Collaboriamo molto con le realtà no profit, nel senso che noi siamo per natura e per vocazione portati a fare rete, cerchiamo sempre di collaborare con le realtà che possano essere associazioni di volontariato, associazioni pazienti, le fondazioni delle realtà per esempio sanitarie con cui lavoriamo, la fondazione ANT, che è una fondazione con cui facciamo dei progetti per le persone con patologie oncologiche. Ci sono tantissime realtà con cui facciamo rete, solitamente si costruiscono dei progetti, si capisce come dare magari noi un apporto in termini di gestione, di tecnologia, di comunicazione a loro, e da loro impariamo le esigenze, il comunicare con le persone, i servizi che possiamo costruire in una maniera ancora migliore, possiamo dare anche gratuitamente cercando degli sponsor, cercando di costruire delle progettualità, quindi c'è un grosso potenziale. Il terzo settore ha un problema forse anche di frammentazione, nel senso che ci sono sempre tantissime realtà che fanno delle cose bellissime in maniera però magari circoscritta a livello territoriale, sì, perché le risorse ovviamente sono ristrette. Noi abbiamo una piattaforma tecnologica, abbiamo dei sistemi e dei flussi che permettono di essere tempestivi, di passare e allargare i territori in maniera molto semplice, quindi cerchiamo di mettere anche questi strumenti a fattor comune. Diciamo quindi un'azienda a tutti gli effetti, con un occhio al profitto per rimanere in piedi e un occhio al solidale per chi invece ne ha bisogno. Allora, prima di lasciarci, Michela, una domanda sul futuro. Quando sarà finita tutta questa incertezza e questa situazione drammatica che ci sta intorno? Quali saranno i prossimi sviluppi della piattaforma Ugo? Allora, sicuramente noi, quando sarà finito tutto questo, riprenderemo a fare quello che facciamo ogni giorno, quindi affiancare le persone nelle necessità quotidiane, e lo facciamo anche per dare supporto a tutte quelle famiglie in cui solitamente i figli caregiver hanno tante responsabilità parallele e hanno delle concrete difficoltà di conciliazione tra vita privata, lavoro e responsabilità di cura. Quello che noi faremo sarà lavorare moltissimo per portare Ugo a livello di copertura nazionale, nel senso che noi oggi siamo presenti in alcune città. Vogliamo dire le città dove Ugo è presente? Noi siamo presenti a Milano e in provincia di Milano, cerchiamo di coprire la maggior parte dell'Interland, siamo presenti a Monza e a Varese. I nostri operatori sono anche a Torino, a Genova, a Roma e a Lecce. Okay. Quindi il servizio anche in questi giorni può essere richiesto in tutte queste città e nei comuni limitrofi. Nella pagina poi del sito questa cosa è specificata. Potrebbe sicuramente scriverci, la mail che leggiamo tutti tempestivamente è info@hellougo.com. Abbiamo un numero di telefono 392-9967-718. Vi chiediamo un po' di pazienza perché stiamo ricevendo tante richieste, quindi è possibile che la linea sia ogni tanto occupata, però assolutamente, altrimenti scrivete via mail, noi risponderemo a tutti e cercheremo di fare rete sia con le realtà che vogliano anche collaborare con noi, quindi se ci sono persone anche volontarie che vogliano aiutare in questo momento possono scrivere sempre via mail e cercheremo di ottimizzare tutte le risorse che abbiamo. Volevo ringraziare Michela Conti, fondatrice di Ugo, questo servizio a disposizione del cittadino per aiutare le persone con esigenze di accompagnamento, che in questo momento particolare è estremamente importante. Ricordo anche a tutti quanti l'indirizzo del sito del governo, solidarietadigitale.agid.com. www.pepemoderna.gov.it, dove potete vedere tutte le iniziative fatte dalle imprese, non solo del terzo settore, ma anche dalle imprese tradizionali, messo a disposizione gratuitamente per la cittadinanza e per le altre imprese. Grazie ancora Michela e mi raccomando, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di fare ripartire questo paese. Restiamo a casa, ricordiamocelo tutti, che le commissioni le fanno gli operatori Ugo. E grazie mille a voi per questa opportunità. Crepi il lupo. Grazie ancora Michela e mi raccomando, rimbocchiamoci tutte le maniche per fare ripartire questo paese. Ringraziamo anche dall'altra parte del vetro Felix di Radio Veronica One che ci ha ospitato per questa e per le precedenti e per le prossime puntate. Ringraziamo i nostri ascoltatori per essere stati con noi. L'appuntamento è la prossima settimana, domenica alle 13.45 con una nuova puntata di Radio Next, oppure il lunedì con il podcast esteso dell'intervista con Michela. Un saluto a tutti voi da parte di Pepe Moder.